E senti, niente, appunto, stavamo dicendo che questa mattina, appunto, la presenza di compagni e compagne a Piazzale Clodio è per l'ennesima udienza del processo relativo ai fatti del 14 dicembre 2010. Vogliamo un po' riassumere, insomma, la vicenda e lo stato delle cose? Sì, esatto. Buongiorno a tutte e tutti. Questa mattina si tiene il processo verso cinque compagni che furono arrestati il 14 dicembre del 2010 durante la manifestazione del movimento studentesco e non solo, che è sceso in piazza contro il governo Berlusconi, una manifestazione che, come tutte e tutti ricorderanno, culminò in questo tentativo di andare a protestare verso i palazzi del potere, che fu represso duramente dalle forze dell'ordine, per cui ci furono dei violenti incidenti in quel di Piazza del Popolo che durarono tantissimo tempo, insomma almeno un paio d'ore, in cui ci fu una resistenza alle cariche delle forze dell'ordine piuttosto importante da parte dei manifestanti. Sì, mentre se non ricordo male i parlamentari erano barricati dentro e votavano l'ennesima fiducia al governo Berlusconi. Sì, ci furono diversi arresti quel giorno, anche situazioni piuttosto difficili e complicate, e sia in quel 14 dicembre ci furono gli arresti e successivamente arrivarono denunce, obblighi di firma verso numerose compagne e compagni. Oggi c'è l'ennesimo processo che si tiene qui al Tribunale di Piazzale Clodio contro cinque compagni accusati a vario titolo di diversi reati, da resistenza aggravata, violenza, eccetera, eccetera. Il processo non è ancora iniziato, siamo in attesa e in ritardo. Ci sono, insomma, siamo circa una trentina di compagni e compagne qui al Palazzo A del Tribunale, la Palazzina del Tribunale di Roma, al primo piano, nella aula 2 della sezione collegiale. Forse è anche un caso, non so, di spendere due parole sull'importanza di essere presenti come compagni e compagni. Bene, scusami. No, stavo dicendo che è importante anche ribadire le motivazioni, insomma, della presenza di compagni e compagne davanti al tribunale e dell'importanza di esserci e anche, insomma, di chi può di raggiungervi. Sì, le motivazioni sono innanzitutto quello di costruire una rete di solidarietà alle compagne e compagni, ma anche a tanti giovani ragazzi e ragazze che quel 14 dicembre sono stati arrestati oppure denunciati, e anche in altre situazioni analoghe come il 15 ottobre o altro tipo di manifestazioni, per non lasciarli soli, per far sì che un movimento di massa poi sia tale anche quando singoli compagni e compagni vengono arrestati o mandati sotto processo, affinché ci sia una partecipazione solidale in questi momenti difficili, che nessuno, come amiamo tanto ripetere i nostri slogan, venga lasciato solo. Sì, fra l'altro, insomma, la presenza di stamattina a Piazzale Clodio si collega anche alla manifestazione, ci sarà il 9 febbraio a Teramo, insomma, appunto, in quel caso per le condanne a devastazione e saccheggio del 15 ottobre. Sì, esatto, perché poi questo tipo di presidi che si svolgono in merito a questo tipo di manifestazioni sono importanti, perché dopo il 14 dicembre, dopo quegli arresti, dopo il 15 ottobre e gli altri arresti, sappiamo che un mese fa c'è stata questa dura condanna nei confronti di compagni di Teramo, per cui ci sarà questa manifestazione nazionale sabato 9 febbraio lì. E come sapete, anche la radio sta mandando l'informazione, si stanno organizzando dei pullman per portare la nostra solidarietà. Come dire, la Procura della Repubblica di Roma, la sezione antiterrorismo in particolare, che sta procedendo a portare avanti tutti questi processi, tende a unire anche militanti, compagni di situazioni diverse, mentre ahimè noi non riusciamo a costruire una rete ampia, forte e solidale che ci porti a manifestare la nostra solidarietà in queste occasioni. E tornando al processo di stamattina, all'udienza di stamattina, se non hai altro da aggiungere, noi siamo qua e aspettiamo insomma sviluppi, oltre a invitare tutte e tutti a raggiungervi. Sì, no, l'udienza appunto non ho nulla da aggiungere perché sono in ritardo, non è iniziata, ripeto, per chi volesse raggiungerci è il Tribunale di Roma, Piazzale Clodio, la Palazzina A, primo piano, aula 2 della sezione collegiale. Ti ringraziamo e appunto i microfoni di Radio Onda Rossa sono qua aperti per quello che sta, per quello che succede. Grazie a te, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.